Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. Ed eccoci a voi col nostro più affettuoso saluto da Gesi e Antonio. Antonio, mi raccomando, passare bene la settimana santa, Ma speriamo di farlo. Ah, ecco, farla proprio come si deve. Come si deve. Ah, ecco, appunto. Allora. Allora diamo un cordiale benvenuto alle amiche e agli amici di Blu Radio Veneto per questo percorso ideale nei sentieri della memoria. Ricordiamo il nostro indirizzo internet che è bluradioveneto.it e il numero di telefono per SMS, consigli, proposte, suggerimenti, critiche ed altro è il 346 23 20 033. Ricordiamo anche che è possibile l'ascolto in streaming e il relativo download della trasmissione. Senza dimenticare naturalmente un saluto al nostro regista e al nostro coordinatore. Saluti a tutti. Questa sera non abbiamo mica un ospite virtuale, l'abbiamo proprio qui in studio, una giovane signora insegnante che si dedica al giornalismo, a pubblicità, e salutiamo la signora Elena Pilato. Elena, buonasera. Buonasera Elena. Buonasera a voi. E benvenuta. E grazie, grazie. Un ben trovato e un forte abbraccio ai nostri radioascoltatori. Benissimo. E a voi un ringraziamento sentito perché mi fate sentire quasi nel salotto di casa. Grazie. Ma qui siamo in un salotto. Decisamente, decisamente. Allora adesso Elena, prima ci ascoltiamo una canzone. E poi le diamo la parola perché così lei si autopresenta. Perfetto. Benissimo. Grazie. Ecco, allora, come prima canzone, da diversi anni che rinnovo questo rito, ci ascoltiamo una canzone cantata da Claudio Villa ed è intitolata Canzone di Primavera. Oggi è venuto a visitarmi un usignolo, m'ha fatto un dono, e sai qual è? Son poche note scritte su di un rigo solo, quattro parole, di più non c'è, ma son sicuro piaceranno a te. Una canzone di primavera, è il più bel fiore sbocciato al sole che io dono a te, è la promessa di un'alba chiara, con il profumo di chi vuol bene soltanto a me. La melodia dirà al tuo cuore, il primo amore non si può dimenticare, e bacerà la bocca tua sincera, la mia canzone di primavera. Eccoci di nuovo in studio e adesso diamo la parola alla signora Elena che ci racconterà prima un po' di lei e poi ci dirà di che cosa ci parlerà oggi. Ecco. Grazie Elena. Gesuina. Allora, con emozione palpitante, difficile da controllare, per cui anticipatamente chiedo venia. È sempre difficile parlare di sé, però mi piace raccontarmi, soprattutto come insegnante. I bambini, i ragazzi hanno sempre accompagnato la mia vita e oggi come, perdonatemi questo termine, filo paesaggista, cioè l'altro grande amore della mia esistenza, la natura, il paesaggio e in particolar modo la Marca Trevigiana, l'Alta Marca e la Sinistra Piave, perché nasco a Conegliano Veneto, quindi c'è il riferimento preciso al paese natio. Certo. E poi mi piace, sono diventata una sorta di globetrotter grazie al mio compagno che effettua spesso dei reportage fotografici, cui passa un po' il setaccio e quelle che sono appunto le borgate, i paesi, i centri della Marca. Ecco. Sì. E oggi vi narrerò di uno di questi paesi, borghi, a mio parere incantevole, cercando anche di sviluppare di toccare quel sottofondo di tradizioni, leggende, detti che rappresentano un po' la spina dorsale del nostro folklore, quindi della cultura degli avi e anche della nostra identità. Partirei da Rolle e ci troviamo in Valmareno, che è più nota come Vallata o anche Valsana, e siamo un po' in una zona che rimane tra il Felettano, per cui tocchiamo ancora le colline conegliani, e tutta quella pedemontana bagnata dal Soligo che poi si innesta sul quartier del Piave e via via Passo San Boldo, ma poi ci spostiamo già verso il Bellunese. Allora, tornando a Rolle è un po' un borgo incantato ed incantevole, mi piace definirlo così, che sorge a sinistra rispetto al corso del Soligo ed ha come caratteristica che spicca questi filari di viti che sembrano quasi delle perle di una collana che si distende su questi declivi morbidi, molli li chiamava Piovene a suo tempo nel bellissimo esattamente Viaggio in Italia, e fa parte del comune di Cison di Valmarino, e come dicevo la particolarità è proprio la vite, per cui siamo sulla strada del Prosecco che porta da Conegliano a Valdobbiadene, che sono un po' i due poli del Prosecco, e Rolle raggruppa un fazzoletto di case, sembra quasi di essere a tratti in un paese fuori dal tempo, sospeso, metafisico, però quando giungiamo ci rendiamo ben conto che invece la bellezza è palpabile, fisica, materiale, è lì pronta ad accoglierci. Specialmente adesso, comincia la primavera. Infatti è ricco di vegetazione, soprattutto da alberi da frutto. Poi è interessante anche questo toponimo, Rolle. Per alcuni autori deriverebbe dal termine latino rubus, che sta per rovo, perché nell'antichità c'è stata una sorta di bonifica, abbondavano i rovi, per cui c'erano anche rovi spontanei. Sì, assolutamente, tutto è molto spontaneo, non c'è l'intervento della mano umana se non in funzione della natura, dei suoi frutti, ecco. E questa è la meta eletta e prescelta per il viaggio di oggi. Benissimo, allora incominciamo il viaggio. Allora, direi di continuare descrivendo un po' qual è l'immagine che ci viene incontro quando giungiamo lungo la strada, è la provinciale 152, che ci porta fino proprio nel cuore di Rolle, del borgo. E parlando di Rolle, mi piace compararlo a quei luoghi che sembrano quasi nascosti nella luce, dove la vigna si arrampica sulle colline perdendosi oltre l'orizzonte, dove gli olivi si stagliano su questi rilievi, declivi, dolci, creando una barriera però immaginaria che divide la terra dal cielo e dove la natura si apre all'occhio dell'uomo in file ordinate ma mai monotone. Spero di rendervi l'idea di pittorica di questo borgo, che sembra già pronto per essere ritratto dalla mano di un vedutista e di un paesaggista. Questa è Rolle. Beh. È Rolle, un luogo in fondo lontano dal Veneto dei capannoni, degli insediamenti commerciali. Un luogo, uno dei pochi luoghi preservati, diciamo, dall'esagerazione. Un Veneto, un paesino da fate, da favola. Assolutamente, fiabesco, dove anche i ritmi, ed è questo che mi spinge appena posso a trovarvi dimora, dove anche i ritmi sono proprio, seguono un po' l'armonia cadenzata della natura. E il silenzio li esalta, c'è il gorgoglio dell'acqua dell'unica fontana, c'è il cinguettio degli uccellini, c'è qua e là la parlata dei locali che è anche molto musicale e c'è veramente un'idea del tempo che forse non conosciamo o forse abbiamo abbandonato e che qui possiamo ritrovare immacolata intanto. Un microcosmo particolarmente valido, assolutamente, insomma, assolutamente. Proprio in netto contrasto con quello che è il lavorio, la pianura, le città, i capannoni, certo. Ed è circondata da colline, la valle di fronte, su cui che abbracciata diciamo da Rolle, è contrapuntata da vigneti, ma anche da alcuni appensamenti di prati. E qui non ci si arriva in realtà per caso, bisogna proprio volerlo, andare, desiderarlo. E spesso sono le gite fuori porta anche, si incrociano ciclisti perché c'è un percorso ciclabile di più di 40 chilometri, per cui anche ben servita in tal senso la zona, e anche qualche motociclista attratto dalle viuzze, dalle stradine tortuose, per cui stregato slalom, un po' da questo slalom. E Rolle lì ad aspettarci con questa dimensione per l'appunto fiabesca, idilliaca, quasi di un bel tempo andato che però possiamo con la volontà ricostruire e risentire nostro. Ma è un po' in collina quanto siamo? Allora, non siamo in realtà molto alti, intorno ai 260 metri sul livello del mare, per cui non è dolce un'altezza collina, esattamente, diciamo, è un'altezza non eccessiva. E poi, come dicevo, c'è questa abbondanza di alberi da frutto. E quindi anche i fiori che dai rami danno un'idea proprio di macchie colorate che fanno da contrappunto a queste viti. E tra l'altro una particolarità delle viti è la disposizione a palo secco, che mi sembra anche interessante. Che non conosco, non mi pare di ricordare. La vite a palo secco è così chiamata perché sì, la vite vista un po', consentitemi questa metafora, come la moglie che ha bisogno di un sostegno, di aggrapparsi a un palo che in questo caso non è, ahimè, di cemento come ormai siamo abituati a vedere in altri luoghi, ma continua ad essere vivo, cioè della pianta. E lì arrivano i tralci che, non dico sì, si avvinghiano a mo' d'edera, ma proprio cercano supporto ad una distanza di 6-7 metri. Ci sono questi pali che consentono alla vite di espandersi pur mantenendosi ben salda, diciamo. E questa è la disposizione a palo secco, tipica di Rolle. Ecco, allora adesso un momento, Elena, ci fermiamo per ascoltarci una seconda canzone. ascolteremo Lucio Battisti nella canzone Perché no. Eccoci di nuovo in studio con la nostra amica Elena per un percorso nel territorio fatato di Rolle. Grazie Antonio. Io ritornerei a porre l'accento un po' su quelli che sono i cenni storici, o per meglio dire un inquadramento sul piano storico, senza voler annoiare. Opportuno, per cui, sì. Infatti, per cui richiamo di nuovo l'attenzione, la sottolineatura sul toponimo, perché il toponimo, lo dice il termine stesso, ci fornisce delle spiegazioni riguardo quello che è proprio l'alveo storico di nascita di questo borgo magnifico. E come dicevo poc'anzi, c'è un'interpretazione che fa risalire il nome Rolle a questa abbondanza di rovi, da rubus, il termine è latino, che sta ad indicare, però c'è anche un'altra interpretazione che mi piace sottolineare, perché per alcuni è considerata fantasiosa, però spesso la fantasia è poi foriera invece delle spiegazioni della vita, che poi risultano più credibili e più vere. Ed è una interpretazione che fa risalire il nome di Rolle alla produzione di vasellame, cioè di vasi e di pentole di terracotta, e la formula latina che sta ad indicare questo toponimo, vado proprio a dirla con estrema esattezza, precisione, è regio ollarum, cioè zona, regione del vasellame, delle pentole di terracotta. Ecco, perché l'ollare da dove viene. Ecco, quindi l'ollare che ritroviamo in Rolle. Esattamente. E vado anche a sostanziare di ulteriori spiegazioni. C'è un avvallamento a Rolle che viene chiamato, è un salto d'acqua che viene chiamato della Rosada, perché c'è la presenza di una pietra rosa tipica di questi luoghi di Rolle, con cui per l'appunto venivano preparati vasi di terracotta che venivano cotti in una fornace che era proprio a pochi metri, ora ahimè non c'è più, a pochi metri dalla piazza centrale, l'unica del paese, del villaggio. E questa località Rosada ha oggi delle testimonianze esistenti di quanto vi sto dicendo, che è partito tutto dal toponimo, e sono degli abbeveratoi e anche dei lavatoi ancora visibili, e che vi daranno modo, esorto, invito i visitatori veramente di fare un salto in quella che era la quotidianità delle donne un tempo, che dovevano lasciare la propria casa per recarsi a lavare panni, in questi lavatoi popolari, comuni. E la particolarità di Rolle è che hanno il colore rosa della stessa pietra con cui veniva poi venivano preparati questi vasi di terracotta, che poi purtroppo, ahimè, il trascorrere del tempo ha un po' non relegato, ma è arrivato il progresso, per cui adesso fanno bella mostra di sé questi vasi nelle taverne, perché sul piano proprio della cucina. Reminiscenze così. Pensare che il cibo cotto nelle pentole di terracotta è buonissimo. È buonissimo. Sì. Mantiene, preserva l'autenticità dei sapori. Per cui questo è il secondo toponimo da cui si fa risalire il nome Rolle. Ritornando alla storia, la storia di Rolle è inevitabile che sia così, è strettamente intrecciata fin dal basso Medioevo, per cui stiamo parlando 1100, certo, 1200, sì. A quella della municipalità del comune di Cisone, che dista circa 4-5 chilometri più a nord rispetto a Rolle. Dapprima questo borgo, Rolle, per l'appunto, nasce, infatti, si consacra, per meglio dire, come regola, spiego ai nostri amici ascoltatori, radioascoltatori, per regola si intende il comune rurale dell'epoca medievale, che dipendeva dalla pieve matrice di Cisone, la pieve dedicata all'Assunzione, a Santa Maria Assunta. E in seguito poi, con l'evoluzione anche delle varie amministrazioni, diventa circoscrizione più ad est del feudo dei Camminesi, del vescovo di Ceneda, e negli ultimi anni, stiamo parlando fine 800, primi 900, dei Brandolini. Ah, proprietari, sì, del famoso castello, del celebre maniero, sì, si parlava di regole, sì, è la stesso, lo stesso principio, diciamo, amministrativo della Bellunese e compagnia, i regolieri, le regole di Lorenzago, certo, il Cadore, Antonio, certo, ah, ecco, certo, lo quindi c'è una propaggine, diciamo, nel nostro, nella nostra una zona, sorta di appendice, ecco, ecco, di quella suddivisione territoriale, era un caposaldo nel periodo medievale, per cui che ci porta benissimo, sì, ad un dialogo, collegamento amministrativo anche con il Bellunese, certo, interessante, Antonio, molto interessante, molto intrigante, ed interessante. Sì, decisamente. Sì, prego. Sì. E ritornando appunto alla storia intrecciata con Cison, dobbiamo aggiungere che una parte del territorio della parrocchia di Dirolle, fin dal 1002, rappresentava una sorta di rendita, beneficio ecclesiastico, e qui facciamo un salto, dei monaci benedettini di Nonantola. Siamo a Modena, ed ecco un altro ponte, per così dire, che ci fa riflettere, sì, perché poi Rolle invece aveva molti contatti anche al di là di quella che poteva essere la pedemontana, sempre sanciti dalle comunità, sì, religiose, certo, ed, certo, ecclesiastiche, certo. E questi stessi monaci di Nonantola, siamo a Treviso, stiamo trasmettendo, hanno per anni retto la chiesa di Santa Maria Maggiore a Treviso, per cui ulteriore dialogo che ci aiuta a spazzare collegamenti estremamente interessanti, cose fuori dal comune, diciamo, che non, di dominio comune, infatti, presumibile. Infatti, appartengono a quella storia minuta o microstoria da cui poi derivano comunque gli eventi universali. Esatto. Esattamente. E della parrocchia di Rolle abbiamo anche dei cenni di contatto, collaborazione, sinergia, come ci piace dire oggi, con un antico monastero che era presente sempre nelle vicinanze della piazza a Rolle, ma purtroppo andato distrutto, ahimè, a cavallo fine 800, primi del 900, ma purtroppo la distruzione si fece poi macroscopica, massiccia, con l'avvento delle guerre, della grande guerra. Oggi però i visitatori possono trovare le vestigia rimaste in una sorta di piccola barchessa ancora in piedi, che è stata restaurata, e come sappiamo la barchezza è il barcon in Veneto, cioè il deposito, anche per i monaci era così, il deposito dei loro attrezzi di lavoro. Oggi rimangono questi porticati che danno l'idea ancora della vivacità, della frugalità, del dinamismo di un tempo, dell'organizzazione inappuntabile. E le comunità religiose che si sono succedute a Rolle si sono tutte richiamate all'ordine benedettino, per cui la laboriosità e la preghiera, sì, assolutamente di matrice, inscindibile dall'attività, dal lavoro, dal fare della quotidianità, un insieme di amore, di passione per ciò che si poteva creare. L'altra faccia della fede, quindi. L'altra faccia della fede, esattamente così, Antonio. E Rolle, fino all'età napoleonica, sarà un centro di scambio anche con i prodotti agricoli, andrà sempre consolidando la vocazione alla viticoltura. Purtroppo nel dopoguerra assisterà, ahimè, sventura comune a molti piccoli centri, assisterà ad una diminuzione vistosa della popolazione. Vi do due dati per riflettere su questo. Durante la Seconda Guerra Mondiale Rolle aveva circa 800 abitanti, comprendendo anche le frazioni di Zuel di qua e di Zuel di là. Zuel di qua e Zuel di là. Si chiamano in questo modo, si dice, derivi, e anche qui debbo, perdonatemi, scomodare il latino, derivi dal termine iugum, che sta per giogo. Valico, stretto, toia, perché sono posti in una sorta di crinale che... Uno da una parte e uno dall'altra. Esattamente, sì. Divisi. Zuel di qua a sinistra rispetto alla strada e Zuel di là sull'altro versante. Per cui Zuel è un po' il passaggio, inteso in questo senso. Non è che uno tocchi, di loro tocchi il Bellunese. No, siamo proprio a circa, ma neanche un chilometro da Rolle, per cui sono proprio limitrofi a ridosso e fanno tutt'uno comunque con il borgo di Rolle. Sì, sì. E come dicevo, rimane, ahimè, comprendeva 800 bambini, oggi abbiamo 150 abitanti. Dall'ultimo censimento un esodo quasi completo, sì. Mamma mia. E i bambini, ma sono migrati molti Sud America, sì, difatti. Molti Sud America, qualcuno ritorna in estate. Le varie ondate delle migrazioni. Sì, sì, magari si comprano la casetta per poi in pensione. Nella terra dei propri anni. Certo. E i bambini sono in un numero di 4 che ogni giorno prendono il loro pulmino. Quattro bambini. Per raggiungere la scuola vicina di Cison per le elementari, di Tarso invece per gli istituti superiori. Una cosa che dà da pensare, evidentemente. Ma pensa che pace che ci sarà lì. Un'armonia, una quiete. Pensa 150 persone. Sì. E quattro bambini. È quasi una grande famiglia. Quasi diciamo, una grande allargata famiglia. Di quelle di tipo arcaico. Capita spesso, transitando, e vi invito a verificarlo, perché è così, che qualche anziana signora vi fermi, vi si intrattenga con voi, come succedeva un tempo un po' con un fare colloquiale amorevole che commuove, tocca nel cuore, perché oggi non ce n'è più, tutt'altra cosa, sì, purtroppo. Allora Elida, ci fermiamo ancora un momentino per un'altra canzone, e questa volta la canzone cantata da Siria, 100 giorni. Benissimo. Cento giorni senza di te, 100 notti in giro, sono già le 3. Butto via i miei giorni così, fra i rimbalzi dei miei no e dei miei sì. Notti e tu dove sei? Mi hai già detto che non son fatti miei. Torno a casa e passo da te, guardo solo se la macchina c'è. Dove sarà tutto il tempo che ho perso? Ma adesso vivo così. sono già le tre. Butto via i miei giorni così, fra i rimbalzi dei miei no e dei miei sì. E adesso vivo così. Eccoci di nuovo in studio e ridiamo la parola alla Elena. Grazie Gesuina. Come dicevo poco fa, Rolle per cui ormai è abitato da poche famiglie, però c'è un'occasione, un momento in cui il paese ridiventa scoppiettante o perlomeno si riempie di gente, si anima. Proprio così, Gesuina. Il 25 di luglio, perché ricorre San Giacomo. Ah, sì, ed è, sì, è vero. La festa del paese, patrono, del paese. San Giacomo. San Giacomo, infatti, la chiesa parrocchiale, proprio la titolazione è per San Giacomo e San Filippo. E mi piace anche qui, consentitemi la divagazione, ma neanche tanto, è pertinente, San Giacomo è il patrono dei pellegrini. Santiago de Compostela. Esattamente. E Rolle si presta quasi ad un pellegrinaggio dell'anima, ma inteso in senso lato, proprio perché si ritrova questa dimensione dell'intimità e anche dell'afflato con la natura che ampia un po' i confini della nostra interiorità. Per cui trovo che sia proprio anche congeniale il fatto di un patrono che protegga e conduca e accompagni i pellegrini. Come dicevo, il piccolo borgo si anima e qui tocchiamo il tema della buona tavola, si anima e soprattutto prepara i palati per il tradizionale spiedo, detto lo speo. Lo speo, mi raccomando, sì, certo. Che in Altamarca e specie in Vallata ha una sua titolarità di prestigio e viene chiamato Sua Maestà il speo. Addirittura Sua Maestà? Sì, sì. Sì, c'è proprio un'accademia di cucina veneta che ha riconosciuto, ripeto, il prestigio, ma in che senso? Oltre a quello gastronomico, culinario, è favoloso e buonissimo, anche come elemento di aggregazione, esatto, di convivialità culturale, di unione. Infatti lo spiedo e il speo dà modo a tutti di sedersi accanto gli uni agli altri, commentare, parlare, raccontare di sé, ed è questo un elemento unificante. Una delle certo, poche occasioni aggreganti diciamo un borgo che autocontenuto, diciamo. Ma allora, allora arriverà gente anche da Cison, da ovunque si riversa lì, perché a Rolle, perché ci sono proprio i maestri, il maestro dello spiedo, perché c'è una procedura ben precisa. Tra l'altro mi è stato detto da uno dei maestri più esperti che questo modo di preparare, cucinare, lo dobbiamo, come tantissime altre invenzioni, niente po' di meno che a Leonardo. Ah, l'ha detto, a Leonardo. A Leonardo. Ma pensa un po'. Aveva anche questa dimensione. Ma pensa un po'. Infatti mi piace immaginare quel suo uomo di Vitruvio, consentitemi, che volge un po' lo sguardo a questa ricetta che è apprezzata e, come precisavo a Gesuina poco fa, richiama gente anche da oltre la provincia, certo, trevigiana. Perché qui abbiamo, oltre alla gastronomia, anche una coreografia, assolutamente, ho l'impressione, e quindi questo porta anche a, come posso dire, ad aumentare il grado di convivialità, certo, di immedesimazione. Ci saranno tutti questi tavoli, eccetera. Assolutamente, c'è la luce del sole, esatto, che non abbandona mai. Il crepuscolo, il cielo assume spesso delle tonalità sull'arancione. Sì, che bello. Per cui vi lascio immaginare, proprio, e qui Antonio mi offre la possibilità di richiamare un illustre rappresentante della poesia, Zanzotto, che parlava di Rolle come cartolina mandata dagli dèi. Pensa, immaginifico, grande. Che bello. Per cui rende come solo lui sapeva fare il in maniera... Il paesaggio, il microcosmo, il mondo praticamente. Era un amante della natura. Assolutamente. Lui spesso trovava nell'ozium, nel riposo di come lo intendevano i latini, di questi luoghi, trovava proprio soavità, proprio per comporre. E chiamava Rolle Dolle, quasi con un vezzeggiativo, questo per far capire quale affettuosità, quale profondo amore ci che fosse, aveva, ci fosse per quest'angolo di paradiso, proprio. Accanto allo Spiedo c'è anche modo di assaggiare nella trattoria, che è un'istituzione quarantennale ormai, anche il pastin bellunese. Anche la sopa coada trevigiana. Che questo è un altro piatto praticamente. Sì, in una versione che mi si dice li vari un po', per cui ci siano delle varianti. Certo, però poi richiama anche, il piatto famoso. Infatti, poi vabbè, il radicchio nostro, vari tipi di formaggi, il tutto in affianco. Ecco il prosecco. Dal prosecco e anche dal Verdiso, vogliamo ricordarlo, Verdiso, che è un po' il parente non minore, per carità, però meno diffuso, meno noto del prosecco. Non l'ho mai sentito nome, ma è frizzante anche quello. Più tranquillo. Rispetto al prosecco, ecco. Questo è un po' lo spaccato delle delizie, delle leccornie che ci offrono le trattorie, gli agriturismo. Tra l'altro Rolle è ricco di rustici che sono stati riattati e votati alla ricettività turistica. Esatto, anche perché credo che dopo la nostra trasmissione oltretutto saranno anche in aumento i possibili fruitori di questa. Anche perché decisamente queste descrizioni sono fondamentali, sono necessarie per dipingere, è veramente un dipinto, bravo. Elena. Grazie, ecco. Ma penso che d'estate ci sarà molta più gente, Sì, perché come ho avuto modo prima di accennare, ritornano anche molti figli di emigranti. Ed è così lirico, commovente, toccante evidenziare come si sentano sempre a casa e in fondo quel filo, quella corrispondenza d'amorosi sensi, per citare il Fusco, non si è mai spezzata. Ci sono studenti universitari, mi è stato detto, che hanno scoperto Rolle e sono tornati nel fine settimana quasi per purificarsi dalle fatiche. Questo potrebbe essere proprio la motivazione, perché non c'è stato uno stravolgimento del microcosmo, di Rolle, come in altri dove non ci si riconosce Le pietre parlano, il fruscio delle fronde degli alberi non ha alcun clacson che possa dire disturbarlo, frenarlo. Si ritorna un po' veramente indietro nel tempo, ma deve essere bellissimo. Io intanto che Elena racconta mi pare di essere lì, questo paesino silenzioso, bello, con questi bei un'evocazione proprio. Bene, allora ci fermiamo ancora un momentino per un'altra canzone cantata da Celentano, Se non è amore. Sei giù e non sai perché, se lui non c'è, ci sono io, se vuoi parlare, se hai bisogno compagnia. proprio noi, e se tagliamo noi. Ed eccoci di nuovo in studio per l'ultima tranche con la nostra amica Elena. Questo viaggio, diciamo, tra le fate e gli incanti della collina trevigiana. Grazie Antonio. Grazie Antonio. Ritornando al nostro borgo incantato, Rolle, mi piace toccare un tema che ricorre tra i paesi, i piccoli centri, ed è quello legato un po' alle zuffe, alle schermaglie, però del tutto bonarie e tra campanili, ecco, chi di noi non le ha vissute, qualche soprannome, qualche... Ah, sì. Presa in giro, ma molto scherzosa, molto, blanda, sì, molto alla leggera. Alla campagnola, proprio c'è molta autenticità rustica, genuina in questo. Rolle non si sottrae a questo gioco. E per parlare di queste schermaglie scherzose, mi piace coniare un po' una terminologia di blasoni popolari, cioè titoli scelti, coniati dalla gente, dalla nostra gente. E nel caso di Rolle, i blasoni affondano proprio nella sua produzione agricola. Come dicevo, Rolle, oltre alle meravigliose viti di Prosecco, oltre ai castagneti, oltre ai rovi, che poi però sono stati un bonificati, po' bonificati, ha varie piante da frutto, per cui meli, peri, anche pruni. E di lì arriva il modo di dire, coniato dai paesi con termini limitrofi, che paragona gli abitanti di Rolle ai peri, ah. E lo dico in veneto, iperderoe. Ecco, è proprio secondo la dicitura dell'alta marca, della sinistra piana. Iperderoe. Questo però faceva abbastanza stizzire, intendiamoci, non siamo nell'ambito delle baruffe rollesi, per così dire. Perché? Perché i confinanti dicevano che Rolle, la gente maturasse un po', fosse un po' così dura di comprendonio, come i per che maturano alla fine dell'estate. Di contro, invece, i locali, gli indigeni, i rollesi rispondevano: no, noi maturiamo per ultimi come i peri, perché siamo saggi e abbiamo un modo di vivere che va a toccare nel profondo le esperienze, non siamo superficialotti, per cui sì che veniamo dopo i perette e siamo per, però siamo per nel senso di essere succosi, stratificati di esperienze. Diatribe agricole. Esattamente. Però era un segno, come dire, di anche questo di cultura, ma anche di un certo bonario, una bonario preso in giro, ma anche un rispetto profondo della natura, del lavoro. Proprio dell'interezza di ciò che si chiamava allora... Del ciclo della vita. Esattamente, il ciclo della vita. E sempre concludendo nel senso di questi... moti di spirito, di questi blasoni, altre piante che abbondano sono i prugni. Ah. E qui c'è un termine che è di una bellezza quasi intraducibile. I prugni a Rolle sono prugni selvatici di coltivazione del tutto libera, spontanea. Sì. E rimangono spesso, innanzitutto non sono le prugne che siamo abituati a mangiare. Sì, sì. Sono molto più piccoli, quasi delle susine, così dire. Ma non ci mangiano quelli? Rimangono, ahimè, spesso acerbi, non giungono a piena maturazione. Sì. Di lì il detto, nell'antichità, che gli abitanti fossero un po' ingenuotti, perennemente acerbi, quindi chiamati bromboi. Lo sentite come onomatopeica, quasi pascoliana, i bromboi. Nel senso di una susina che non è matura, non è ancora tutta rinchiusa nel suo essere embrionale, così. chiaramente sempre con quella vena molto ridanciana, ma in senso buono, e gli abitanti rispondevano: la cervità è segno di ingenuità, di dell'essere immacolati, di non essere, di non essere corrotti, di non essere corrotti, traviati un certo. po' dal tempo. E concludo, in questo mi riallaccio un po' invece a versi di caratura ben più elevata, diciamo, ritornando a Zanzotto. Zanzotto, vado un po' a memoria, dice di Rolle che qui si ha la possibilità di un paradiso, miracolosamente esistente e alternativo, dove l'aria, l'acqua, gli elementi e la poesia trovano nuovo respiro, dove si riacquista l'abbandono e la sacralità della vita. Ma belli questi versi. Questo sto andando a memoria, parafrasando. Richiama proprio il concetto di Zanzotto di salvaguardia del paesaggio, tutela, eccetera. Di tutela, sì. Rolle come avamposto contro la corrosione di una modernità che forse corre troppo veloce. Eh sì, che non è stata governata, ma è stata subita, se vogliamo. Esattamente. Ecco, questa... Questa è l'immagine che bella, direi può far da cornice a questo borgo, che veramente vi aprirà il cuore e vi lo riempirà di soavità se seguirete in fondo quello che è un itinerario che poi vi abbraccerà come una sorta di arena, di anfiteatro. Questi versi di Zanzotto sono, sai, i primi? Allora, sì. Questi versi si trovano nell'ultima raccolta Conglomerati, che venne pubblicata nel 2009, e la poesia si intitola L'aria di Dolle. Ah, perché lui la chiamava Dolle, è vero? Dolle. Sì. L'aria di... comunque, sì, io non lo conosco proprio a fondo Zanzotto, però questi versi mi hanno emozionato. Molto. Questo, vero? E andiamo con l'ultima canzone prima di un finale, diciamo... così evocativo, prima di una sintesi proprio breve di questa meraviglia che abbiamo ascoltato. Benissimo, allora la canzone è in tema meraviglioso, che è cantata da Domenico Modugno. È vero, credetemi, è accaduto di notte su di un ponte, guardando l'acqua scura con la dannata voglia di fare un tuffo giù. D'un tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante, mi portò via dicendomi così. Meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso, meraviglioso. Perfino il tuo dolore potrà apparire poi meraviglioso. Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare. Tu dici non ho niente, ti sembra niente il sole, la vita, l'amore, meraviglioso. Il bene di una donna che ama solo te, meraviglioso, la luce di un mattino, l'abbraccio di un amico, il viso di un bambino, meraviglioso, meraviglioso. Ed eccoci di nuovo in studio per una sintesi finale di questa, di queste straordinarie, bella, sì, carrellata. Di poetica, da parte di Elena. E anche pittorica, perché anche pittorica. Ha saputo proprio dipingere. esatto. Grazie, bravissima, infinitamente, sì. Gentili, davvero non merito tanto. Io vi lascio e con un arrivederci, certo. E donandovi, per così dire, in questo quadro sintetico alcune parole chiave che identificano Rolle. Siamo Valmarino, vallata, poi mi verrebbe da dirvi poesia delle viti, mi verrebbe da aggiungere gorgoglio dell'acqua, e poi questa arena arborea che vi attende, e poi, perché no, delizie del palato, poi l'ars bibendi, cioè l'arte del intonare anche qualche brindisi, e vi aspetto davvero in questo luogo meraviglioso. Arrivederci e a presto, è stato un piacere, una gioia. Diciamo che è un luoghi del genere che possono sembrare, diciamo, luoghi di fate, luoghi di lontani nel tempo e nello spazio, sono qui a portata di ciascun proprio. Viaggiatore, è proprio anche, vero. Anche non diciamo è esperto così. Di viaggiatori, di esploratori e cose di questo tipo. È proprio è un qualcosa così. Adatto a qualunque famiglia. Diciamo. Agevole anche da un punto di vista viario, per esatto. Cui, e mi permetto di aggiungere, confina con il nostro cuore. Ecco, confina con il nostro cuore. Ecco, con questa immagine noi naturalmente ringraziamo Elena, e naturalmente vorremmo averla ancora ospite. Io spero che ci delizierà di nuovo con altre mete, diciamo, della nostra terra. Allora, Elena, grazie di tutto, e spero molto presto di averla ancora con noi. Grazie Gesina, ecco, un forte abbraccio anche ai radioascoltatori. Sì. A quelli vicini e anche a quelli lontani. Che ci ascoltano lontani. Certo. Antonio, grazie come sempre. Grazie ecco, a te e grazie a tutti voi. Un saluto affettuoso, e la prossima volta sarà Pasqua, quando ci sentiremo. Bene, allora un saluto affettuoso e un ciao come sempre. Avete ascoltato Storie de Noaltri. Tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. Questo programma lo puoi riascoltare su bluradioveneto.it.